signori, vi presento Coro degli Alleati. Angelita, ti saresti chiamata Angelita, Angelita. Angelita, volevamo chiamarti Angelita, Angelita. Sbarcammo ad Anzio una notte. Oh oh, oh oh. C'era soltanto la luna ed un pianto di bimba in fondo al suo sguardo di mare. C'erano ancora le favole e quattro conchiglie ripiene di sabbia. Stringeva una piccola mano. Angelita, ti saresti chiamata Angelita, Angelita. Entrammo in Anzio e fu l'alba. Oh oh, oh oh. Con il fucile sul braccio e la bimba con noi. Aveva i capelli di grano e una voce di passero e quattro conchiglie ripiene di sabbia. Stringeva una piccola mano. Angelita, volevamo chiamarti Angelita, Angelita. Che alba grigia su Anzio. Oh oh, oh oh. Scese improvviso tra noi un silenzio di bimba. Da questo sguardo di mare eran fuggite le favole, ma quattro conchiglie piene di sabbia restavano nella sua mano. Angelita, ti saresti chiamata Angelita, Angelita. Come sbarcano gli alleati, come affondano gli annegati. Oh oh, oh oh. Angelita, volevamo chiamarti Angelita, Angelita, Angelita, Angelita. Era un'ebrea, era una zingara. Stanno sbarcando gli alleati. Oh oh, affondano gli annegati. Oh oh, vai in camera tua, chiuditi dentro. Una zingara, un'ebrea. Io che amo solo te. Ti saresti chiamata Angelita, Angelita. Mangio dischi, mangio dischi. A mille ce n'è, a mille. Angelita, volevamo chiamarti Angelita. Io che amo solo te. Io che amo solo te. Mangio dischi. Angelita, eran fuggite le favole, c'erano ancora canzoni grandi, grandi, grandi, c'erano ancora i favolosi anni 50. Sbarcammo ad Anzio una notte. Oh oh, oh oh. C'era soltanto la luna ed un pianto di bimba. Eran fuggite le favole, a mille ce n'è. Piselli che crescono, piselli che crescono, lunghi, lunghi, lunghi. lunghi. Si scontorciano fino al cielo, verde pisello. Vai in camera tua e chiuditici! Sei grande, grande, grande, Angelita! E quattro conchiglie ripiene di sabbia stringeva una piccola mano. Angelita, ti saresti chiamata Angelita. Volevate chiamarmi Angelita? Allora perché non mi avete chiamato Angelita? Rina, morta. Angelita, morta. Rina, la morte di Rina laggiù, la morte di Rina qui, adesso, adesso, adesso succede, adesso. Solamente tu. Entrammo in ansio e fu l'alba. Oh, oh, oh, oh, come sbarcano gli alleati. Oh, oh, oh, oh, come riaffiorano gli annegati con il fucile sul braccio e la bimba con noi. Singhiozza! E crampi al pancio! Il cranchio di Pinocchio ha il raffreddore e succia una pastiglia per sudare. Ic! Ic! Ic! Corre, corre sulla sabbia all'indietro, all'indietro, e succia una pastiglia per sudare, Angelita. Aveva i capelli di grano e spasmi alla bocca dello stomaco. Zingara, ebrea, spastica, zingara, ebrea. Spastica! Oh, oh, oh, oh, oh. Spastica! E una voce di passero. I am the sparrow. I am the sparrow. Mi fa dire la teacher all'appello. Il pianto di coccodrillo di mangiafuoco diventa Angelita. E sì! Volevamo chiamarti Angelita. Ecci! Ecci! Angelita! Arriveranno gli alleati, appellati a cappella. Vi appello a cappella. Che alba grigia su ansio. Oh oh! Oh oh! Sbarcano gli alleati. Bang! Bang! Passano sotto la porta della mia camera. Vai in camera tua. I favolosi anni 50, 60, poi bang, bang! Scese improvviso tra noi. Boom economico, boom economico! A mille ce n'è, a mille ce n'è! Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Da questo sguardo di mare eran fuggite le favole. Boom economico, ma quattro conchiglie ripiene di sabbia. Incollavo conchiglie e sassi su cartone e coloravo i bordi. Classificavo sassi e conchiglie. Angelita, Rina, rinominavo. Classificavo sassi, conchiglie. Angelita. Ti saresti chiamata Angelita, scalza e lacera, Angelita. Zoccoletti, zoccoletti che davate ogni mattina. Angelita, scalza e lacera, che davate ogni mattina. Angelita, il saluto con la Nina. Mangia dischi, Angelita! Angelita! Mamma! Mormora la bambina. Mentre pieni di pianto gli occhi per la tua piccolina. Non compri mai balocchi. Mentre morivo, mi chiudevo in bagno, tiravo lo sciacquone, zoccoletti che davate ogni mattina. La piccolissima, zoccoletti. Mamma, tu compri soltanto profumi per te, che davate ogni mattina. Il buongiorno con la Nina, Rina, Angelita, cantavate. Mi chiudevo in bagno, tiravo lo sciacquone. Arrivano gli alleati dietro la porta, cantavano ridendo. Angelita, piena di profumi e balocchi, a mille ce n'è, bambine morte, a mille ce n'è, mille bambine morte, bang bang. Mi chiudevo in bagno, tiravo lo sciacquone. Signori, vi presento Atanasio. Atanasio, saluta i signori. Moriva anche Atanasio, cavallo Vanesio. Morivano i caprettini della pastora. Morivano tutti e sette masticati dal lupo. Mentre raccontava sentivo le ossa sottili stritolare, sentivo il rumore dei loro ossicini sgranocchiare dentro la bocca. Nella bocca aguzza del lupo sono io a masticare a mille. Boom! Bang! Spero. Mentre raccontava sentivo sapore di sale, sapore di mare, sapore di sangue in bocca. Eppure credevo fino a ieri l'altro che tutti e mille si sarebbero alla fine salvati, fino all'altro ieri insepolte. Ma io non sarei morta e nemmeno tu. Ero ricca. Eri ricco, a mille ce n'era. Alle mie feste di compleanno c'era il prestigiatore, i figli dei proletari, dei sottoproletari e dei borghesi piccoli, medi e grandi, tutti insieme, appassionatamente, sull'ascensore sociale. Sono io. Tornavano a casa dalla mia festa ogni 12 gennaio in maschera, con dei regaletti molto carini. Io sono ricca. Già, quando ero piccolina, la vecchia zia Evelina, in cambio di un inchino, mi dava mezza lira, se la schiacci fra i denti. Sapore di sale, sapore di sangue, sapore di mare.